si può fare. Cronache da un paese migliore. Sì! Può fare! Di Alessio Maurizi. Eccoci qua, cari ascoltatori, ben ritrovati. Subito i contatti per restare in contatto e per segnalarci le vostre notizie. Stanno arrivando molte buone notizie, insomma, le vostre storie, e ogni tanto qualcosa mandiamo anche in onda e ci nutriamo dei vostri spunti. Su Facebook si può fare Radio 24, su Twitter si può fare 24, c'è anche la mail si può fare @radio24.it. Insomma, le nostre buone notizie per così farci ritornare il sorriso dopo la settimana della cronaca. L'altra cronaca, il fine settimana su Radio 24, notizie per esempio così. Qua la parola d'ordine è ottimizzazione nel campo della sanità, perché si parla parecchio degli sprechi della sanità, ma quanti sono quelle le ASL che si organizzano per fare le cose fatte bene? Sentite qua, a Belluno, è una cosa che nel privato già funziona, ma nelle ASL pubbliche forse un po' di meno. Iniziati i primi esami serali, nel frattempo si pensa già di farli all'alba. Succede che la USL, non pensavo esistessero più, però evidentemente invece sì, di Belluno, ha allargato gli orari per fare le visite, per fare nella fattispecie le radiografie, fino alle 10 di sera. Solo questo ha permesso di fare molte visite in più. I cittadini sono tutti contenti, sono meno file. L'idea è semplice, e ripeto, nel privato questa è la norma, ma nel pubblico che fatica per fare queste cose qua, insomma, facciamole sempre di più. E voi segnalateci tramite i canali che vi ho ora ricordato, insomma, tutte le pratiche di questo tipo qua, positive, delle belle idee originali che possono contaminare, le racconteremo in onda nelle prossime puntate. La prossima notizia viene da Milano. Qua il tema è l'ambiente, la gestione dei giardini, il risparmio e la partecipazione. Quante belle parole per dire che cosa? Che l'assessore Chiara Bisconti ha annunciato che, insomma, diventerà una regola affidare le aree verdi ai privati, ai cittadini, alle associazioni, ai comitati. Perché? Perché, insomma, uno dei motivi per cui tra un giardino e una striscia di cemento spesso le amministrazioni che rifanno le arredi urbani decidono per una striscia di cemento è semplicemente che costa di meno la manutenzione, perché manutenere un giardino, potare gli alberi, curare i fiori costa, è più bello ma costa. Allora come si fa di questi tempi che è tutto difficile in termini economici? Si affida ai comitati, alle associazioni dei cittadini che partecipano a queste cose, sono tutti contenti, e così il comune risparmia qualcosa. Questa è la svolta verde dell'amministrazione di Milano. Staremo a vedere se di svolta vera si tratterà. Quest'altra notizia qua viene da Palermo. Insomma, riguarda la legalità, non poteva che essere così a Palermo del resto. Nel quartiere Zen, noto alle cronache per tutto quello che succede di nefasto, ma anche per le cose positive che si innescano, i residenti del quartiere Insula 3 si sono ribellati perché hanno visto che di notte i locali che devono ospitare la biblioteca e l'asilo, che ancora non sono stati realizzati in questo quartiere popolare di Palermo, erano occupati da delle persone che stavano lì a bivaccare, insomma, dei senza tetto, probabilmente, che cercavano di farsi una casa. Allora, ognuno deve avere il suo spazio. Il senza tetto bisogna dargli una casa, ma la biblioteca deve essere biblioteca, deve essere asilo, non può essere altro. E allora loro, in attesa che il comune e i vigili urbani facciano rispettare le regole, sono andati e hanno sgomberato tutti e dicono: noi qua ci vogliamo la biblioteca. Mi sembra una cosa sacrosanta, anche se non dovrebbero essere i cittadini a farlo, ma quando lo fanno evidentemente è che si è superato il limite. 828 1212 è il numero della nostra segreteria telefonica per accogliere le vostre ricette per salvare l'Italia in un minuto. Andiamo ad iniziare. Da dove vai con i capelli al vento, col cuor contento e col sorriso incantato? Se tu lo vuoi, o prima o poi arriveremo sul traguardo dell'amore. Se incontriamo una salita, io ti sospingerò. È sempre un piacere sentire questa musica che, insomma, utilizziamo per introdurre l'argomento, che avrete capito. Un appuntamento a Milano il 4 maggio per una mobilità nuova. Mobilità nuova è un sito, è anche un hashtag su Twitter, è un'iniziativa che, insomma, dove ci vuol portare? Allora noi lo chiediamo, lo abbiamo convocato a Damiano Di Simine, presidente di Lega Ambiente Lombardia. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, appuntamento a Milano il 4 maggio per fare che cosa? Per arrivare dove? Ma l'obiettivo è di arrivare verso il centro città, quindi in Piazza Duomo, per la, come percorso della manifestazione, ma in realtà l'obiettivo è di traguardare una nuova, il nuovo ciclo economico con una diversa idea di mobilità, molto più svincolata dal possesso individuale dell'automobile e più legata ad una concetti efficienti e moderni di mobilità collettiva e di uso condiviso dell'automobile e di uso intelligente del proprio corpo, la bicicletta, tanto per intenderci, integrata con la rete della mobilità. E infatti, non solo, perché voglio leggere dal sottotitolo dell'iniziativa: pedoni, pedali e pendolari, il 4 maggio insieme a Milano, la mobilità nuova sposta i soldi per muovere le persone, la mobilità vecchia sposta le persone per muovere i soldi. Insomma, andava letto perché chiarisce bene, no? Avete un obiettivo ambizioso, cioè porre praticamente sul tappeto questa tematica con forza nuova, con... e anche con un progetto di legge. Sì, abbiamo in predisposizione un progetto di legge di iniziativa popolare su cui vogliamo raccogliere moltissime firme e vogliamo anche pensare che in tutta Italia, perché questa è una manifestazione nazionale, si apra una stagione di profondi ripensamenti sulle priorità di spesa e sui concetti stessi di investimenti infrastrutturali, perché fino ad oggi abbiamo visto grandi progetti di investimento che vanno verso infrastrutture per la lunga percorrenza, come se fossimo ritornati agli anni 60 e 70 quando bisognava unire l'Italia, e ci siamo dimenticati invece delle città, il luogo in cui avviene la gran parte degli spostamenti dentro le città, da e per le città, che invece richiedono una politica della mobilità molto più mirata, perché se è importante avere un'utenza business che viaggia da Milano a Roma, non è meno importante avere milioni di persone che arrivano puntualmente e non logorati in ufficio, in fabbrica o a scuola tutti i giorni, e questo credo che sia una prestazione minima che si debba richiedere al trasporto, alla mobilità collettiva. E noi sappiamo quanti sono i pendolari che ogni giorno si muovono sui treni, insomma, maledicendo tutti gli assessori che sono passati, tutte le compagnie ferroviarie possibili, perché i disagi sono enormi, i ritardi, le linee che soppresse, sono forse proprio questo tema dei pendolari che ogni volta ritorna, ma al quale poi nessuno si dedica. Damiano, io ti vorrei chiedere proprio questo: quali sono, secondo te, secondo voi che vi state muovendo in questa direzione, gli ostacoli da rimuovere? Sono ostacoli culturali, le lobby dell'economia, di chi produce le automobili? Si può fare. Cronache da un paese migliore. Di nuovo in compagnia di Damiano Di Simine, presidente di Lega Ambiente Lombardia, che ci sta illustrando l'iniziativa che ci sarà a Milano il 4 maggio, un'iniziativa milanese ma nazionale, mobilità nuova. Tutto quello che avete sentito sino ad ora. Qual è l'ostacolo, gli ostacoli da rimuovere? Insomma, è una questione di lobby, è una questione di mentalità o è una questione di inerzia, nel senso che ormai siamo abituati a ragionare in un certo modo, col autocentrico, automobile centrico, e si fa fatica a cambiare paradigmi. Perché? Beh, ci sono ostacoli legati in gran parte al modo di pensare di una politica tradizionale, al concetto stesso di mobilità collettiva, che è stato sempre misteriosamente scollegato dai principi di efficienza e di efficacia dell'investimento. Misteriosamente scollegato, questa è bella, cioè, della serie non si capisce perché ragionamenti inefficienti dominano le politiche del... L'inefficienza domina in Italia, perché in Italia abbiamo una spesa pubblica destinata alla mobilità collettiva che è dello stesso ordine di grandezza di altri paesi europei, ma chissà com'è, l'efficienza di questa spesa la lascia molto a desiderare, se andiamo a vedere come sono attrezzate per esempio le nostre città, quanto a dotazioni di linee metropolitane, suburbane, qual è il servizio che si svolge su queste linee, quali sono le prestazioni di puntualità, di efficienza, di cadenzamento dei servizi di mobilità collettiva. Se andiamo a vedere altre città europee, il confronto francamente non regge per numero di passeggeri trasportati e per grado di soddisfazione dell'utenza. Dobbiamo pensare anche al fatto che nel prossimo futuro sempre di più la mobilità sarà un fatto di connessione al servizio e sempre di meno la mobilità sarà proprietaria. questo l'hanno detto anche i dirigenti di grandi società automobilistiche, che hanno fatto i conti, cioè, con le bisogna, evoluzioni del settore. Bisogna affidarsi, insomma, ai mezzi pubblici, che non vuol dire soltanto l'autobus o il tram, ma può voler dire il car sharing, diciamo, no? Il bike sharing. Ormai si stanno affermando piccolo. Anche modalità molto innovative legate all'uso degli smartphone per poter avere accesso a servizi di condivisione dell'auto che fino a poco tempo fa erano impensabili, quindi sapere sempre in ogni momento qual è l'automobile a disposizione più vicina, con dispositivi portatili o cose di questo genere. L'uso intelligente della bicicletta: la bicicletta è uno strumento semplice ma estremamente performante, per cui non si capisce perché le nostre città non debbano adeguarsi alla mobilità ciclistica e ciclopedonale in senso lato. Recuperare spazi. L'automobile ha occupato grandissimi spazi di altissimo valore, ma perfino nel cuore delle nostre città. Recuperarli, restituirli alla fruizione pubblica, all'utilizzo come piazza di mercato o spazi culturali o spazi di relazione. Insomma, è una scommessa molto alta, tenuto conto anche di quanto costa il sistema di mobilità privata per le famiglie. L'Italia è notoriamente il paese più automunito di Europa, l'uso dell'auto costa mediamente per auto una cifra dell'ordine di 6.000 euro all'anno, considerata la dotazione media di automobili delle famiglie italiane, vuol dire che ogni famiglia ogni anno per avere la proprietà del mezzo di trasporto spende intorno ai 10.000 euro all'anno. È un'altra cosa che può sembrare un po' incomprensibile, no? Perché in questi tempi di crisi si spende così tanto per l'auto che poi spesso risulta quasi inutile, nel senso che si potrebbe essere sostituita con cose più economiche e a volte anche più efficienti. Certo è che il salto mentale da fare non è da poco. Può aiutare questa alta percentuale di giovani nel Parlamento italiano, da poco, anche se con risultati finora non esaltanti, eletto Damiano? Cioè, una mentalità nuova che può scattare anche in una generazione nuova. Questo indubbiamente, ma c'è anche da pensare a come ci attrezziamo per vivere un nuovo ciclo economico. Il ciclo economico che si è chiuso è stato il ciclo economico in cui l'auto ha fatto da padrone, ha prodotto benessere, industrializzazione, ricchezza, rendite patrimoniali legate alla dislocazione, per esempio, delle nostre case. Il nuovo ciclo economico sarà ancora legato a quella modalità oppure no? A me viene proprio da pensare che il nuovo ciclo economico potrebbe avere nella mobilità, nella rivoluzione dei concetti fondamentali di mobilità, uno dei suoi asset fondamentali. Che potrebbe diventare, come dicevi tu, un modo per rilanciare anche l'economia con una rivoluzione magari a basso impatto tecnologico, ma insomma nuova. Ma lo speriamo. A basso, ma anche alto. Perché, anche insomma, alto, perché se parliamo di auto elettrica o di cose di questo genere, naturalmente. Io penso a cosa fa la somma di tutte le spese delle famiglie in mobilità privata, senza contare i costi esterni, i costi sanitari e quant'altro, che sono ingentissimi. Beh, quella somma fa solo in mobilità privata, senza contare la mobilità delle merci, fa 200 miliardi all'anno. Che è una bella fetta di PIL. Se io potessi ridurre questa spesa e liberare quelle risorse per altre forme di mobilità o per altri bisogni altrettanto prioritari come la mobilità, beh, io ho altro che una manovra economica. Realmente non diciamolo agli operai della Fiat, ma insomma questa è la direzione nella quale si potrebbe andare. No, è una battuta. In realtà anche le aziende automobilistiche hanno l'occasione di rinnovarsi, di cambiare e di produrre cose utili in questo quadro di mobilità nuova, sicuramente. Grazie intanto Damiano Di Simine, presidente di Lega Ambiente Lombardia, per essere stato con noi. Grazie a voi, arrivederci il sabato in piazza Duca d'Aosta a Milano, davanti alla stazione centrale, per la manifestazione della mobilità nuova. Grazie, appuntamento. Allora, l'appuntamento ce l'ha ricordato lui, adesso invece noi ci spostiamo alla scuola di altra amministrazione a Padova. Iniziative di partecipazione popolare protagoniste alla scuola di altra amministrazione, appuntamento il 3 maggio a Padova. protagoniste appunto sono le iniziative di partecipazione di comuni grandi e piccoli che aderiscono all'associazione Comuni Virtuosi, che è la madrina di questa scuola di altra amministrazione, dove la R sta volutamente tra parentesi. E allora noi abbiamo convocato, e lo salutiamo, uno dei protagonisti di questa iniziativa, che spiegherà agli altri comuni una bella iniziativa di partecipazione nel suo comune. Buongiorno Cristiano Filippi Farmar. Buongiorno, buongiorno a voi. Assessore alla cultura del piccolo comune di San Vito di Leguzzano. Siamo in provincia di? Vicenza. Tanto per capirsi. Lei terrà una lezione, complimenti, intanto un piccolo comune, 3.000 abitanti, 3.500 abitanti, che però avrà da spiegare a comuni anche ben più importanti, insomma, questa iniziativa di partecipazione. Di cosa si tratta? Come si chiama l'iniziativa prima di tutto? La nostra è un progetto che si chiama Impronta Culturale, un progetto di attività culturali partecipate, quindi sì, dove l'ideazione e la realizzazione delle attività culturali del comune nasce dal coinvolgimento e dalla partecipazione dei cittadini, organizzati in gruppi di lavoro. E il motto del progetto è: la cultura è fatta di cose che ci scambiamo. Ecco, perché voi avete sentito, poi adesso ci spiegherà Cristiano meglio il contenuto di questo progetto, perché avete sentito il bisogno di coinvolgere le persone? Insomma, fra l'altro voi siete in un piccolo comune, quindi verrebbe a dire è facile, no? Siete lì, vi vedete. E invece noi siamo partiti così nel 2009, avevamo una serie di obiettivi, no? Volevamo aumentare gli scambi e le relazioni, moltiplicare l'offerta culturale, coinvolgere di più le associazioni del territorio, creare naturalmente ogni dove reti di collaborazione, rilanciare le attività di piazza, insomma una serie di obiettivi che da soli non eravamo certo in grado di raggiungere. Da qui quindi la necessità di trovare disponibilità di persone che via via, visto il numero, ci ha permesso di mettere in moto un vero e proprio progetto di cittadinanza attiva. E adesso questo progetto come si sostanzia? Che cosa succede? Cosa succede? Che succede che in qualche modo questo tema qua della partecipazione noi lo abbiamo declinato sul lavorare insieme, sul realizzare le cose insieme, per cui siamo passati da la possibilità di fare una decina di giornate di attività culturali all'anno a dei risultati di 59 giornate, quindi con 10.000 presenze, quindi con attività piccole, che vuol dire di attività serali, presentazioni libro, incontri, fino a giornate vere e proprie, come una che stiamo realizzando in questi giorni, che è una passeggiata che diventa l'occasione di rileggere un classico della letteratura con concerti e mostre, dove partecipano 15, 20, anche altre giornate, 30 associazioni o gruppi del territorio. Cioè voi in questo piccolo comune state lì, vi sciallate, iniziative, letture, cultura, cioè siete in quattro gatti, però vi date un sacco da fare. Tutto gratis, perché voi non spendete una lira, fanno tutto. Noi spendiamo poco. Non è che non spendiamo, bisogna spendere di più in cultura, sappiamo in che stato versa la cultura in Italia, spendiamo poco effettivamente perché abbiamo grandi risorse di e quindi capacità di ideazione, programmazione, perché queste persone, e sono oltre 50, quasi 60 ogni anno, costantemente si trovano, progettano, decidono quanto proporre all'amministrazione, quante economie, quindi un vero e proprio bilancio partecipativo, e diventa la mia proposta che io porto in giunta per creare il bilancio. Dopodiché la giunta, in base alle risorse che ha, riesce a rispondere alle richieste. Però la forza di tutto questo, che è diventata una forza tra l'altro per noi strategica, è avere insieme a noi a lavorare, a costruire le attività e a realizzarle un grande numero di cittadini. Quindi insomma si inverte il concetto, non è il comune che mette a disposizione dei fondi per fare e poi si vedrà che cosa, ma è la partecipazione dei cittadini che decide cosa fare e poi il comune decide se finanziarlo. E che capite chiaramente che è una piccola cosa, ma in sé abbastanza rivoluzionaria, è così. Certo, e noi questo lo facciamo anche misurando e valutando quello che facciamo, quindi abbiamo distribuito una tessera a punti culturali, per cui si vincono poi premi culturali, che vuol dire libri, dischi, film, abbonamenti a riviste, e con questa misurazione costante che noi facciamo alle attività, chi vuole, è un grande gioco naturalmente, certo, che visto che abbiamo nel nostro portafogli la tessera del supermercato, la tessera sanitaria, la carta di credito, adesso avete aggiunto anche questa carta anche culturale, una carta appunti, appunto 700 già le abbiamo distribuite, poiché qui è un grande gioco che ci permette anche di capire come i soldi dei cittadini vengono spesi. Cosa funziona e cosa non funziona. Esattamente. Che dire, complimenti, vi verremo a trovare, viene voglia di venire lì a San Vito di Leguzzano, in provincia di Vicenza. L'impronta culturale è un progetto di cui si parlerà alla Scuola di Alta Amministrazione il 3 maggio a Padova, promossa dall'Associazione Comuni Virtuosi, che una ne fa e cento ne pensa. Grazie per essere stato con noi, Cristiano Filippi Farma. Si può fare. Cronache da un paese migliore. La celeberrima sigla di Batman, unico modo forse per introdurre l'argomento, il nostro prossimo ospite Paolo Agnelli, zoologo del Museo di Storia Naturale dell'Università di Firenze, col quale parliamo di pipistrelli. Buongiorno. Salve, ciao, buongiorno a tutti. Allora, parliamo di pipistrelli perché? Perché, insomma, con l'arrivo del caldo torna a questione il tema delle fastidiose zanzare. Sappiamo da un po' di tempo che il pipistrello ci è amico, nella lotta contro il fastidioso insetto, ci è amico anche per tante altre cose, il pipistrello, e c'è un progetto portato avanti da alcuni anni, fra l'altro da lei, Paolo, e anche dalla COP, che dà una mano in questo caso, certo. Che prevede, lo dico in sintesi, poi parliamo di tutto, la diffusione di bat box, cioè di le case per il pipistrello, da diffondere insomma su tutto il territorio, no, nazionale, per ripopolare questo... È un volatile, come lo dobbiamo definire? È un mammifero, l'unico mammifero in grado di volare. Ecco, perché insomma sta diventando sempre più raro, no? E questo è il punto di partenza. Voi volete ripopolare il pipistrello. Le donne all'ascolto non saranno contentissime, perché il pipistrello fa paurissima alle donne, ma anche forse agli uomini. È vero? Sì, possiamo intanto sfatare subito la leggenda, cioè possiamo dire subito che è una leggenda quella che, per cui i pipistrelli si attaccano ai capelli. Qualcuno addirittura mi diceva, particolarmente a quelli biondi. Questa poi dei capelli biondi non l'avevo mai sentita. No, cosa fanno invece di terribile davvero i pipistrelli? Niente? No, di terribile niente, sono animali tranquilli, innocui, fragili, sono piccolissimi. Immaginate che quelli più comuni, noi possiamo vedere in città, pesano intorno ai 10 grammi. Minuscoli, animali piccolissimi che di notte invece fanno un lavoro enorme, è quello di dare la caccia agli insetti, e quindi di tenerne sotto controllo il numero, e tra questi insetti c'è anche una buona percentuale di zanzare. Lei mi diceva che un pipistrellino piccolo così può arrivare a mangiarsi in una notte anche, no, in un'ora forse? In una notte. In una notte 500.000 zanzare. Esatto. Cioè, pensate ad averci un pipistrello vicino a casa, cosa vuol dire? Cioè, le zanzare sono eliminate completamente dall'aria che ci sta intorno. Tra l'altro non è uno scherzo, perché altra cosa, questo progetto prevede, adesso poi lo illustriamo, l'installazione di queste bat box nei giardini privati, pubblici, eccetera. Però il fatto è questo, che ci sono degli studi che si stanno diffondendo, diciamolo forte e chiaro, gli insetticidi, quelli usati comunemente a casa per mandar via le zanzare, fanno male. Sì, fanno male. Sono pericolosi perché sono dei biocidi, cioè servono da uccidere degli organismi viventi, e in piccole percentuali sono innocui, ma ovviamente col tempo si accumulano anche nel nostro organismo e sono pericolosi per la nostra salute. È un po' il concetto del delfino che si avvelena del mercurio presente in tutti i pesci che cattura. Col tempo il livello di mercurio diventa troppo alto e il delfino muore. Ecco, può succedere anche a noi. È terrificante questa cosa qua che sta dicendo. Ci sono proprio degli studi, no, di tossicità, ma anche di rischi ancora maggiori per la nostra salute, perché questi insetticidi sono mutageni, come che si dice? Esatto, cioè non è soltanto il discorso della tossicità, per questo discorso di bioaccumulo, sì, ma per il fatto che queste sostanze inducono delle mutazioni cancerogene, per cui magari ce ne si può rendere conto soltanto dopo decine di anni, ma il rischio c'è. E quando il danno è già fatto. Quindi insomma, senza distinzioni, fanno tutti male o ci sono distinzioni da fare? prodotti sono tantissimi, comunque la maggior parte di quelli che vengono usati sono pericolosi. Mm. Quindi insomma, usateli fuori dalle finestre, insomma, possibilmente non per troppe ore di seguito, e soprattutto se volete partecipare a questo progetto di ripopolamento dei pipistrelli possono dare una mano, tra l'altro forse anche con la temuta zanzara tigre, quella che in realtà va in giro di giorno, quindi qualcuno dice il pipistrello non può nulla contro, però mi diceva Paolo prima dell'intervista che invece sul tramonto c'è un incontro tra i due. Esatto, il tramonto è il momento in cui è più presente la zanzara tigre, ed è proprio il momento in cui il pipistrello è sciaffamato dal proprio rifugio, dalla propria bad box, quindi c'è un periodo di sovrapposizione, diciamo. Come si fa a partecipare a questo progetto che è stato recentemente rilanciato anche a Milano? Lì ci ha dato lo spunto, il Comune di Milano è uno di quelli impegnati in questo tentativo, qualcuno dice è un modo fantasioso per spendere soldi pubblici, in realtà credo che la spesa sia minima, ci sono dei finanziamenti appunto anche della Coop, poi c'è tutto un insieme di volontari, il lavoro che fate voi, il progetto è interessante, ognuno di giudicare. Come si fa se io sono un singolo cittadino che sono interessato ad entrare in questo progetto, professore? Queste 100 bad box sono state donate dalla Coppa al Comune di Milano e il Comune le distribuiranno in parchi, giardini pubblici, eccetera. Il singolo può dotarsi di una bad box andando alla Coppa e comprandola. È importante sapere che la bad box del costo di 24 euro è venduta a prezzo di costo, cioè nessuno guadagna su questa operazione. È semplicemente la Coppa che ci dà una mano al nostro museo di storia naturale di Firenze a diffondere l'utilizzo di questi rifugi artificiali per pipistrelli. E quindi insomma avete capito, questo è quello che si cerca di fare. In quante città, professore, più o meno si sta lavorando in questo? Ormai è diventato un progetto nazionale. L'unica regione in cui non ci sono è la Sardegna, perché non è presente Coop, ma in tutte le altre regioni ci sono negozi Coop che vendono le nostre bacchette studiate appositamente per le nostre specie. Va bene, avete capito, insomma la notizia è questa, sempre di più pipistrelli contro le temute e odiate zanzare. Grazie a Paolo Agnelli, zoologo del Museo di Storia Naturale di Firenze, per essere stato con noi, per averci illustrato. Buon lavoro. Grazie a voi, un bel saluto. E adesso invece noi cambiamo completamente orizzonte, andiamo a parlare di smartphone e di educazione sessuale. Sexy and I know it. Chi si occupa dell'educazione sessuale dei ragazzi d'oggi, insomma i genitori, chi lo sa, spesso è imbarazzante affrontare questi argomenti, eppure va fatto la scuola poco se non con progetti specifici. Allora ecco l'idea, una app per iPhone e per altri smartphone che parla proprio di questo, educazione sessuale per i ragazzi. Noi abbiamo convocato una delle animatrici e ideatrici di questo progetto, Irma Casula, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Presidente del Modavi, Movimento delle Associazioni di Volontariato Italiano, che si occupa di progetti per l'educazione sessuale nelle scuole, per ragazzi di che fascia di età, Irma? Ma in questa attività, diciamo, il target di riferimento è insomma gli adolescenti, quindi i ragazzi dagli 11 ai 14-16 anni. Mm. E che oltre a portare avanti questi progetti, anzi partendo proprio da questi corsi che si fanno nelle scuole con i docenti, gli psicologi e quant'altro, avete capito che magari non bastava e che forse fare un passo in più nel linguaggio, nelle cose usate dai ragazzi, per esempio lo smartphone ormai inseparabile, una app, avete pensato perché no? Esattamente, noi siamo partiti dalla constatazione proprio nella, diciamo, nell'ideazione del progetto, che è un progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un progetto molto complesso che vede degli interventi nelle scuole, dei seminari informativi, eccetera, eccetera. Abbiamo notato che c'è una carenza di informazione e di attività legate all'educazione sessuale, che sono assolutamente pochissime in tutto il sistema nazionale, e in parallelo c'è un'altra grande lacuna lacuna, che è quella del linguaggio e degli strumenti di comunicazione, ovvero quella pochissima educazione sessuale che si fa nelle scuole o in altri contesti che coinvolgono i giovani, molto spesso vengono utilizzati strumenti obsoleti, linguaggi che sono quasi patetici e che ovviamente non riescono poi a colpire nel bersaglio. Diciamolo, c'è sempre un po' di imbarazzo anche da parte dei genitori ad affrontare questo argomento. Le scuole forse rischiano il politicamente corretto e non affrontano questi argomenti per non urtare sensibilità, però di fatto poi finisce che i ragazzini si informano su internet o in modi ancora più brutali, insomma, quasi voglia di non pensarci. E quindi perché non affrontare con serietà, come fate voi? Come funziona questa app? Questa applicazione è ovviamente scaricabile gratuitamente, lo avete già detto voi in introduzione, può essere scaricata sia per smartphone, per gli Android, che per più comunemente gli iPhone. Esatto. Sì. E, all'interno di questa applicazione sarà possibile trovare non solo un abbastanza nutrito dizionario grazie al quale proviamo a dare i primi rudimenti, alcune semplici e basilari informazioni riguardo non solo l'educazione sessuale ma anche le malattie sessualmente trasmissibili, piuttosto che altri concetti, altri termini legati comunque alla sfera dell'educazione sessuale, così come anche una piccolissima guida con alcune risposte utili relative ad alcune domande sulle quali ci sono ancora delle leggende, delle risposte abbastanza colorite e divertenti, per cui soprattutto tra i giovani, per esempio, succede c'è capitato di dover rispondere alle domande del tipo: ma è vero che dopo un rapporto sessuale, se si usa la Coca-Cola, non si resta incinta, si evita la gravidanza desiderata? Ecco. Ma che allora fantasia, magari. Se fosse così, esatto. E in realtà, abbiamo provato a dare con un po' più di serietà, scherzi a parte, delle risposte un po' più serie a queste domande. Perché poi a quell'età lì, insomma, 11-12 anni, è giusto anche parlare di queste cose in questi termini, perché tutto è un gioco, no? Un'altra cosa, un altro mito da sfatare, me l'avevi detto prima dell'intervista: se faccio l'amore in piedi. Esatto, anche quello, se si fa l'amore in piedi si evitano le gravidanze indesiderate, ma no, in realtà no. Ovviamente fa ridere, fa sorridere, però chiaramente è un problema, perché se pensi che in Italia sono più di 100.000 le gravidanze indesiderate e le interruzioni di gravidanza, il problema ovviamente fa meno ridere, se lo associa un dato. Ci sono delle immagini in questa app, qualcosa che colorisca ancora no, però è un'applicazione ovviamente in costante evoluzione, aggiornamento. Già i nostri comunicatori, ma ovviamente non solo i comunicatori, perché poi è un'equipe che ha lavorato a questa applicazione, fatta da comunicatori ma soprattutto anche psicologi, ginecologi, eccetera eccetera, stiamo immaginando a una evoluzione dell'applicazione, che ovviamente ci porterà sia a utilizzare disegni, a aumentare il numero delle risposte, delle FAQ, le cosiddette FAQ, ma anche utilizzare, abbiamo notato, linguaggi alle volte meglio, utilizzare linguaggi diversi. Abbiamo notato che nell'applicazione noi abbiamo alle volte usato un linguaggio forse troppo tecnico, troppo scientifico, che mal si adatta ovviamente a un target alle volte anche molto molto bisogna giovane. Chiaramente farsi capire, essere troppo tecnici con parole magari che rischiano di non essere capite, questo è sbagliato. D'altra parte il rischio opposto, abbiamo già parlato altre volte, è quello della volgarità. Banalizza, si scherza, si ride e non si capisce nulla. Non abbiamo detto però una cosa importante: il nome dell'app. XXY, che è una crasi, una sintesi del cromosoma maschile e femminile. Abbiamo ovviamente, parlando di educazione sessuale, parliamo di maschi e di femmine, abbiamo voluto chiamarla in questo modo. Insomma, avete capito, XXY, potete andare a scaricarla se siete genitori che avete a cura, a cuore, l'educazione sessuale dei vostri figli, oppure se siete ragazzini che siete all'ascolto e siete incuriositi. Questa era l'iniziativa, una app per l'educazione sessuale dei ragazzi. Io ringrazio Irma Casula, che ne è una delle animatrici. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi, buon lavoro. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, ben ritrovati. Adesso parliamo di scuola e di una iniziativa di Cittadinanza Attiva, l'associazione che ben conoscete e che con un progetto ha premiato le tre iniziative vincitrici della 7ª edizione del premio Buone Pratiche della Scuola Vito Scafidi, un premio che è stato consegnato qualche giorno fa. Tutte belle storie che ci racconta Maria Piera Ceci. Scuola, anzi Buone Pratiche nella Scuola. L'iniziativa è di Cittadinanza Attiva, animatrice del 7º premio Vito Scafidi per la sicurezza nelle scuole. 120 progetti presentati, 3 le scuole premiate, 9 quelle menzionate. E poi c'è stata la consegna del primo diploma di responsabili studenti per la sicurezza, una figura promossa con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, un po' come si trovano anche nelle aziende. A riceverlo sono stati gli alunni di 2 classi dell'Istituto Comprensivo Luigi Rizzo di Roma, ma il progetto ora viene esteso anche ad altri 600 studenti di Piemonte, Basilicata ed Umbria. Nessuno può morire a scuola. Il genitore è pronto all'incidente stradale, è pronto alla malattia, ma quando i nostri figli sono a scuola noi dovremmo essere tranquilli. Siamo più preoccupati se stanno male e restano a casa che non quando sono a scuola. Ma Vito ha spostato questa cosa qui. A scuola si può morire, e non solo per colpa del terremoto, anche solo se sbatte una porta. Così parlava qualche tempo fa a Radio 24 la madre di Vito Scafidi, e questa è la parte brutta di tutta questa storia, da cui però la scuola ha tratto la spinta per migliorarsi. Vito Scafidi, lo ricorderete, ragazzo di 17 anni morto mentre era seduto sul banco della sua scuola di Rivoli in Piemonte per un tubo staccatosi dal soffitto. Non si può morire a scuola, dice la mamma di Vito, la scuola deve essere un luogo sicuro per eccellenza. Ciao, io sono Stefano, studio al liceo. Quest'anno avrò gli esami di maturità. Quando sarò grande, farò l'architetto. Progetterò grandi palazzi, dal design avveniristico. Ecocompatibili e sicuri, alti più delle nuvole. Costruire in sicurezza, perché i sogni hanno bisogno di stabili fondamenta. È importante mettere al sicuro la propria vita. Fin da ora, a scuola, il mio futuro è sicuro. Parte da qui. E questo che avete ascoltato è il video, una parte del video completamente dedicato al tema della sicurezza messo a punto dagli studenti dell'Istituto Superiore Avogadro di Torino, uno dei 2 progetti premiati. E ne parliamo questa mattina con il professore referente di questo progetto, Antonio Mandarano. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, voi avete deciso di investire le vostre energie, i vostri sforzi e anche il vostro tempo come insegnanti in questo progetto dedicato alla sicurezza. Avete lavorato tra l'altro con un partner importante, l'INAIL, che insomma da questo punto di vista ne sa qualcosa. Sì, l'INAIL Piemonte. Come hanno reagito i ragazzi? Si sono divertiti oppure che palle, adesso dobbiamo studiare un'altra materia, quella della sicurezza? No, i nostri ragazzi da anni che sono coinvolti nella produzione di audiovisivo e quindi anche nelle tematiche della sicurezza, e anzi loro hanno realizzato anche dei siti dedicati alla tematica, e così acquisiscono delle competenze e le mettono in pratica. Quello che imparano nelle ore di informatica, ad esempio, le mettono in pratica con la realizzazione di un sito informatico come questo, che è dedicato alla sicurezza a scuola, pressoché quello che abbiamo realizzato precedentemente alla sicurezza stradale, un altro sui rischi delle nuove tecnologie, che sono tutte tematiche che riconducono sempre alla sicurezza partecipata. Torino, vicino a Rivoli, purtroppo questo premio intitolato a Vito Scafidi, quanto ha influenzato anche il fatto della vicinanza geografica con quanto successo? È anche da lì che è arrivata la spinta per realizzare questi lavori? Quello che è successo a Rivoli ci ha colpito, è stata una grandissima tragedia. Ovviamente il nostro obiettivo fondamentale è quello di ridurre anche un solo incidente in un ambiente scolastico, significa aver raggiunto il nostro obiettivo, perché la divulgazione della cultura della sicurezza è molto difficile, soprattutto in questi momenti dove alle scuole ci sono pochi finanziamenti e pochi fondi. Grazie dunque ad Antonio Mandarano. Adesso invece parliamo con uno dei ragazzi che ha partecipato a questo progetto. Siamo in collegamento con Stefano Pregnolato, che fa la 5ª e maggiorenne, ci può parlare. Buongiorno Stefano. Buongiorno a tutti. Cos'è che ti è piaciuto di più nella realizzazione di questo progetto e quindi nella realizzazione dei video? abbiamo avuto la possibilità di andare a visitare molti luoghi, cantieri, fabbriche, ospedali e lavorare anche in collaborazione con personale è stato bello. Caschetto in testa naturalmente quando visitavate le aziende, ecco, almeno questo l'avete imparato subito. Ecco, come ti è sembrato poi andare in giro per cantieri, per aziende, insomma il tema della sicurezza è molto sentito? Sì, il tema della sicurezza è sicuramente molto sentito ed è proprio il nostro obiettivo, quello di riuscire a sensibilizzarlo e creare una vera e propria cultura, perché ci siamo proprio resi conto del fatto che se non si inizia da subito non si arriva da nessuna parte. Stefano, toglimi una curiosità, tu ti senti sicuro a scuola? Sì. Devo dire che della nostra scuola sono molto contento, però non posso essere certo e sono al corrente di realtà che vanno in contrasto con questo. Primo tra tutti abbiamo visto la brutta esperienza di Vito Scafidi e sono molto onorato di aver, insieme alla scuola, di aver vinto questo progetto in suo onore. Cioè, c'è la patata come schiacciata, schiacciata, c'è come questo. Come un purè. Sì, purè. Come un purè. Sì, è un purè. Di tutto quello che tu mangi in mese, cosa ti piace di più? Pasta all'olio. Avete ascoltato il video realizzato da studenti ed insegnanti dell'Istituto Comprensivo Govoni di Ferrara sul tema dell'integrazione degli alunni stranieri, che tiene insieme mediatori culturali, associazioni ed altri istituti scolastici. Infatti nel video, che potete guardare su radio24.it, potete vedere come lavorano questi bambini e questi ragazzi, perché insomma la scuola, la buona scuola, non è solo quella i cui muri non cadono, ma anche quella capace di sapersi reinventare guardando alle sfide del futuro. Ne parliamo questa mattina con Maria Teresa Scaramuzza. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, guardando il video, appunto, dicevamo, si vedono ragazzini, bambini che lavorano a piccoli gruppi, lavorano insieme a mediatori culturali che attraverso anche, credo, il cibo, no? Cercano di prendere confidenza con la nostra, sì, con la nostra lingua. Perché intanto avete deciso di investire così tante energie in questo campo, quello della mediazione culturale e quello dell'inserimento dei ragazzi e dei bambini stranieri? La popolazione scolastica nel nostro istituto di cittadinanza non italiana ricopre insomma una percentuale molto molto importante, che è al di sopra della media della media nazionale, diciamo. Quindi se sul territorio nazionale la presenza di alunni stranieri di altre culture copre circa il 10%, noi abbiamo delle cifre un po' più alte, insomma siamo intorno al 25, quasi 30%, e quindi è chiaro che sono soggetti molto importanti che ci mettono nelle condizioni di ridiscutere un attimo la nostra didattica, perché sia più accogliente e risponda ai bisogni di questa utenza nuova, insomma. Insomma, voi insegnanti non avete avuto paura dei bambini, tanti bambini stranieri che arrivano da tutte le parti del mondo, per rimettervi un po' in discussione, perché insomma la didattica va rivista. Assolutamente. E forse questo può far bene a tutti, a voi e anche agli altri bambini, quelli italiani. Sì, sì, sì, perché li aiuta anche loro a diventare futuri cittadini pronti a vivere in una società complessa. Quindi insomma, esatto. Voi come scuola, invece che, come dire, chiudere le porte, no, e dire gli stranieri mandiamoli nella scuola accanto, come accade in molte realtà, sì. E anche voi stesse insegnanti, senza scappare nella scuola accanto dove magari ci sono meno stranieri, avete deciso di fare di questo fenomeno, ormai comunque anche inarrestabile, inutile di cui prendere atto, una ricchezza. Sì, sì, noi ci distinguiamo anche in questo. Senta, sì, una curiosità, sì, sì. Dove li trovate i soldi per i mediatori culturali, che tante scuole non ce la fanno invece ad ottenerli? Questo è una virtù dell'amministrazione comunale, che con tanta fatica riesce però a procurarceli. Quindi complimenti mediatori al Comune di Ferrara, insomma, sì, che ha trovato i soldi, o comunque è lì che ha voluto investire. Grazie mille. Grazie mille a lei. E con queste belle iniziative che riguardano il mondo della scuola si chiude qua anche questa puntata di Si può fare. Io ringrazio Franco Piantanida che ha collaborato in redazione, Andrea Piana che ha scritto con me il programma, Valeria Bernardi in regia. Veniteci a trovare su Facebook Si può fare Radio 24, su Twitter Si può fare 24, anch'io sono sul social network @ Ale Maurizi. Ci risentiamo sabato prossimo. Buona giornata, buona domenica, buon weekend a tutti.